Rieccoci in onda. Allora, dunque, se diciamo sul piano delle questioni sociali che insomma si verificano gli indirizzi di una giunta, ecco, quella di Marino è sembrata partire abbastanza male e nei suoi primi atti tradisce alcune segni di continuità peraltro con la precedente gestione. È emblematica la gestione delle biblioteche comunali che possiamo dire insomma rappresentano un po' il fiore all'occhiello, no, delle istituzioni culturali di Roma e anche una realtà importante del sistema bibliotecario romano, perché è un servizio importante, frequentatissimo, e poi adesso invece si dice che ci può essere questo taglio che pregiudicherebbe appunto l'apertura di alcune delle biblioteche, chiaramente con gravi disagi anche per chi ci lavora e via discorrendo. Siamo collegati appunto con la piazza del Campidoglio, dove è stata indetta questa assemblea che ancora non è iniziata, ma insomma al nostro compagno che è collegato al telefono con noi chiediamo quali sono stati proprio i segnali che vi hanno portato a decidere di fare questo primo passo per chiedere chiarezza e l'immediato ripristino dei fondi che servono. Sì, allora buongiorno a tutti e a tutti, siamo qui in piazza del Campidoglio, è stata indetta questa assemblea sindacale unitaria, quindi di tutte RSU e organizzazioni sindacali rappresentanti istituzioni e biblioteche, perché appunto si è valutato che ormai la situazione ha superato il livello di guardia, è necessario cominciare a dare un segnale, quindi la convocazione qui a piazza del Campidoglio, anche con un valore simbolico, di tutte le lavoratrici e lavoratori dell'istituzione biblioteche di Roma, lavoratrici e lavoratori di ruolo, questa è una precisazione importante perché purtroppo non si è riusciti a fare una convocazione congiunta anche col personale Zetema, che 90 dei quali lavorano nelle biblioteche, quindi loro fanno le assemblee nei prossimi giorni, l'USI per esempio ha indetto l'assemblea di Zetema domani. E il problema, devo fare una precisazione diciamo sul riassunto che faceva all'inizio, in effetti non è un taglio possibile, è un taglio già esecutivo compiuto dalla Giunta di Manno. Questo taglio risale al gennaio scorso, il 33% del bilancio delle istituzioni biblioteche, che riceve appunto il 98% dei suoi finanziamenti da Roma Capitale, è stato tagliato, quindi siamo passati da 21 a 14 milioni, quindi la gestione di questi quasi 9 mesi è sempre più in sofferenza, si sono utilizzati dei risparmi accantonati in precedenza, ma ormai non è più sostenibile la situazione attuale, cioè non possiamo più garantire tutti i servizi offerti al pubblico, quindi la responsabilità dei tagli in effetti è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare e di Alemanno, però se la giunta Marino, se il sindaco Marino non ripristina il bilancio precedente, diventa corresponsabile, perché chiaramente la possibilità, il rischio che vengano colpiti gli utenti o i lavoratori dell'istituzione biblioteca è grandissima. Cioè le ipotesi, ripeto, se certamente questo taglio dovesse rimanere, sono o la chiusura di una ventina di biblioteche su 37 esistenti, forse anche più di 20, per risparmiare sulle utenze, i consumi eccetera. Ovviamente quel personale sarebbe redistribuito in altri servizi di Roma Capitale, non farebbe più il proprio mestiere, oppure il licenziamento di buona parte, se non la maggior parte del personale Zetema, se si tagliasse il finanziamento che le biblioteche di Roma danno a Zetema per la somministrazione di questi 90 lavoratori e lavoratrici, oppure un taglio degli stipendi del personale di ruolo. Nessuna di queste tre ipotesi è accettabile da un punto di vista sindacale, e in particolare dal sindacalismo di base. Speriamo che anche i sindacati confederali non accettino poi diciamo una discussione a ribasso. E la questione quindi interessa non solo circa 280 lavoratori e lavoratrici di ruolo, che sono quelli, diciamo, dipendenti delle istituzioni biblioteche di Roma Capitale, i 90 di Zetema, e quindi siamo sulle 375 persone, ma soprattutto le centinaia di migliaia di cittadini romani, italiani e non italiani, iscritti alle biblioteche di Roma. Una serie di servizi, compresi quelli più tecnologicamente avanzati, tipo tutte le applicazioni sugli smartphone o su internet, che sono disponibili per chi vuole consultare il catalogo, prenotare libri e film, e essere informato delle attività culturali e biblioteche, una serie di servizi, dicevo, aperti una media di 50 ore settimanali al pubblico, in alcune biblioteche addirittura aperti il sabato pomeriggio, qualcuna aperta pure di notte, alcuni giorni alla settimana fino a mezzanotte, c'è anche una biblioteca aperta di domenica, e quindi tutta una serie di servizi gratuiti di qualità, che sono anche un simbolo di civiltà, ecco, perché tutti i paesi culturalmente avanzati, le biblioteche pubbliche sono un patrimonio, appunto, di tutta la città, e a queste si destinano adeguate risorse, perché soprattutto poi in una situazione di crisi come quella attuale, le biblioteche svolgono anche una funzione informativa, aggregativa, non parliamo poi dell'aiuto che danno sul costo libri per gli studenti, perché ovviamente prendendo gratuitamente in prestito non devono pagare le somme consistenti che invece sono necessarie per farli. E insomma, una nuova giunta che ha fatto della difesa e del rilancio della cultura la sua bandiera, nel suo programma elettorale, secondo me non può accettare, senza pagare un alto prezzo politico, che questo taglio rimanga, e che quindi sostanzialmente l'istituzione biblioteche di Roma, che è il più grande sistema biblioteco comunale d'Italia, venga colpita a morte, perché è chiaro che con un taglio del genere non possiamo più garantire tutto quello che garantivamo prima. Quindi è un momento importante, abbiamo ricevuto proprio ieri sera la convocazione dell'assessore, che era stata richiesta in realtà il 3 luglio, ma poi sarà una combinazione dopo che ci saremmo visti qui in assemblea in Campidoglio. È arrivata appunto questa convocazione, meglio tardi che mai, vedremo cosa ci dirà l'assemblea, anzi si sta spostando proprio sotto l'assessorato, e quindi adesso alcuni di noi aspetteranno gli altri lavoratori e lavoratrici che stanno arrivando da varie parti della città. Scusa un attimo, stiamo andando tutti a Campidelli, sì, perché c'è l'assemblea lì, e quindi, diciamo, fra un paio d'ore dovremmo avere idee un po' più chiare di cosa intende fare la giunta Marino. Ho capito, sì, anche perché, insomma, indubbiamente il fatto che vi abbiano convocati fa pensare che immediatamente ha avuto, insomma, successo comunque la vostra iniziativa. D'altra parte, ecco, proprio sul piano del discorso che stavi facendo, insomma, si tratterebbe viceversa di arricchirla questa proposta culturale delle biblioteche. I 21 milioni sono appena sufficienti per tenerle, diciamo così, in esercizio, ma in realtà, insomma, anzi, servirebbero magari più quattrini per magari anche costruirne di più di biblioteche, visto, ecco, che al momento sono soprattutto funzionano molto bene, soprattutto quelle che si trovano in periferia, ma molti territori sono ancora scoperti. Sì, è vero, purtroppo una città come Roma avrebbe bisogno di almeno il doppio delle biblioteche esistenti, quindi non 37 ma circa 70, per essere su un livello, ancora non un livello europeo, ma insomma abbastanza vicino. È chiaro che bisogna capire anche da dove siamo partiti. Le biblioteche, secondo la concezione moderna, nascono con l'era Nicolini, perché prima erano diciamo gestite di solito da uscieri, a volte in scantinati, con libri che preda dell'umidità, quindi veramente una cosa vergognosa. Ancora le biblioteche eredi delle anzi erano proprio le stesse biblioteche popolari dell'età del fascismo, quindi è una storia relativamente giovane. Quella dell'istituzione delle biblioteche è ancora più recente, perché risale al 1996. Ecco, un breve inciso forse può essere interessante: fino a quella data le biblioteche dipendevano dalle allora circoscrizioni, gli attuali municipi, e la possibilità di funzionare bene o male dipendeva moltissimo dalla giunta appunto al potere nella circoscrizione, perché se avevano un'attenzione per la cultura, per i servizi bibliotecari, potevano riservare una fetta sempre piccola ovviamente del loro bilancio per l'acquisto dei documenti librari, dei film, per restaurare ristrutturare le sedi. E se invece c'era un disinteresse, e allora erano guai, perché la biblioteca si stava proprio a sopravvivere. E con diciamo, un'iniziativa che è partita dal basso, dalle lavoratrici e dai lavoratori, si è arrivati a una centralizzazione funzionale di tutte le biblioteche, ovvero l'istituzione si occupa solo di biblioteche, ha un suo bilancio che gestisce in autonomia, bilancio che è assicurato da Roma Capitale, e c'ha un suo consiglio di amministrazione, quindi che dà l'indirizzo politico ed è responsabile del bilancio, mentre il direttore è il datore di lavoro e si occupa della gestione delle biblioteche. Tra l'altro col direttore facciamo anche gli incontri del tavolo sindacale, firmiamo i contratti su salario accessorio, eccetera eccetera. E quindi da allora si sono aperte 15 nuove sedi, almeno altrettante sono state ristrutturate. C'è stata un'impennata delle iscrizioni del patrimonio documentario, dei prestiti, del moltiplicarsi delle attività culturali, della maggiore apertura dell'orario, che adesso è orario continuato 9-19 tutti i giorni della settimana, il sabato la mattina, ma come dicevo prima per molti mesi all'anno tante biblioteche aprono anche il sabato pomeriggio, oppure in orario serale e notturno, quindi una realtà che ormai la cittadinanza conosce molto bene. È una realtà che è aperta totalmente a tutte le fasce d'età e anche ai cittadini stranieri. Non chiediamo il permesso di soggiorno a chi vuole entrare nelle biblioteche e vuole magari anche iscriversi, anzi si fanno pure dei corsi di italiano per stranieri, per dare loro la possibilità di una maggiore integrazione. È una cosa un po' impropria, perché in realtà non dovrebbero essere le biblioteche a svolgere una funzione educativa, ma nel deserto che si sta facendo intorno all'istruzione, alla cultura, cerchiamo di supplire come possiamo, soprattutto nei quartieri periferici. Certo, ecco, tutto questo, tutta questa ricchezza che è stata sempre pubblicamente lodata e apprezzata da tutte le amministrazioni, qualsiasi colore politico, persino dall'università nella sua ricerca sul gradimento dei servizi pubblici, che mette le biblioteche di Roma in testa a questa classifica, cioè il servizio più apprezzato dal pubblico, che l'abbiamo difeso 10 anni fa come sindacato di base, come USI, da una privatizzazione che, senza entrare nei dettagli, avrebbe portato le biblioteche nell'area che attualmente è gestita da Zetema, e con un contratto non più degli enti locali dipendenti pubblici, ma un contratto Federculture. Una cosa che è stata sventata grazie alla determinazione dell'Unione Sindacale Italiana e all'appoggio che ha avuto anche dai lavoratori, perché invece i confederali erano d'accordo nel passare appunto al contratto Federculture. Ecco, un patrimonio pubblico, ripeto, in cui si dimostra tra l'altro che non è affatto vero il finto assioma che privato è bello e pubblico fa sempre schifo, perché appunto il nostro è anche un servizio di qualità. Il senso del nostro servizio è appunto dare ai cittadini e alle cittadine una cosa a cui loro hanno diritto. Questo, la grande maggioranza di chi lavora nella biblioteca ne è molto consapevole, e quindi fino adesso siamo riusciti a difenderlo e a fare in modo anche che non diventasse a pagamento. Ecco, l'unica cosa che che viene chiesta, questo per correttezza di informazione. Tutti i servizi di base sono gratuiti, ma per alcuni servizi aggiuntivi viene chiesto un modestissimo contributo, che sono 5 euro l'anno, la cosiddetta bibliocard, che dà diritto alla navigazione internet, al prestito interbibliotecario, che significa invece di spostarti tu andare a cercare il libro in tutta la città, te lo facciamo arrivare noi sotto casa, cioè in biblioteca, addirittura in altre città, e poi una serie di sconti in librerie, teatri, cinema e altre cose. Quindi ecco, tra l'altro con questi incassi noi ci compriamo altri libri, film, quindi viene completamente reinvestito questo piccolo contributo. Quindi pensiamo di essere sotto questo aspetto a livello della migliore tradizione mondiale, anche spesso noi citiamo i principi dell'UNESCO su cosa deve, su come deve funzionare e cosa deve essere una biblioteca pubblica. E per tornare a bomba, questo taglio ucciderà tutta questa esperienza, e sottolineo, ucciderà anche il diritto di queste centinaia di migliaia di persone, che speriamo diventino ancora di più, che usufruiscono dei servizi delle biblioteche di Roma. Senti, allora abbiamo certamente, insomma, detto che si tratta di un servizio che è tra i pochi effettivamente funzionanti e che è certamente Campitelli, sono tutti a Campitelli. Sì, nel frattempo ci sono le indicazioni per chiamare tutti a raccolta e recarsi a questa assemblea, che le sentiamo in sottofondo. E poi ci diamo l'incontro. Pronto? Ecco, sì, ti stavo dicendo, un limite però molto forte fino adesso è stata la gestione proprio del personale, insomma, lavorativo all'interno delle biblioteche. Ecco, lì si riscontrano invece da tempo gravi problemi, perché c'è una situazione di precarietà, insomma, che dura da parecchio, appunto, i lavoratori di Zete, ma ecco, quello è un nervo scoperto della situazione. Guarda, su Zetema, anche qui per essere precisi, in effetti i lavoratori Zetema sono, almeno quelli che lavorano da noi nelle biblioteche, hanno un contratto a tempo indeterminato. Mi sembra, sono sicuro di quello che sto dicendo, perché a scatto di errori alcune situazioni precarie sono state sanate, ma il punto non è tanto il tipo di contratto, che formalmente a tempo indeterminato anche per Zetema. Il problema è che molti di questi lavoratori, per esempio, sono a part time, ma non perché l'hanno scelto. Mi sono detto o così o niente. Una larghissima fetta di loro non ha il tempo pieno come noi, no? Noi lavoriamo 36 ore a settimana, salvo le ore in più, appunto, per specifici progetti di produttività o straordinario, e loro invece mediamente lavorano 30 ore, e quindi ovviamente è minore, anche se, e questo io lo sottolineo sempre perché è un'anomalia, che è anche una grossa fesseria, noi come istituzione biblioteche, ovvero i contribuenti, pagano per ogni lavoratore Zetema il 24% in più, a parità di orario di lavoro, di un dipendente pubblico. Uno potrebbe dire: come è possibile? Allora questi lavoratori guadagnano più di voi? No, guadagnano meno di noi, perché hanno un contratto più sfavorevole, e la differenza, guarda un po', va al profitto della società Zetema. Altra assurdità di questa situazione è che non è una società privata a tutti gli effetti, perché il 100% del capitale di Zetema è pubblico, cioè di Roma Capitale. Quindi il paradosso è che si sono inventati, e questo è stato il centrosinistra a farlo, stiamo parlando dell'epoca, alle origini, il ministro Bassanini, no? con la famosa legge negli anni 90 che riordinava tutti i servizi pubblici degli enti locali, si è creato questo mostro che ormai gestisce moltissimi servizi, a cominciare dai musei di Roma Capitale, con circa 1000 lavoratrici e lavoratori, quindi molto più grossa la direzione biblioteche da questo punto di vista, e che somministra lavoratori, questo è in pratica quello che succede, all'istituzione biblioteca nel nostro caso. Ovvero, che succede? Nel nostro bilancio, ormai di 14 milioni, 3 milioni e 700 mila vanno a pagare i servizi di Zetema. Quindi il cedolino dello stipendio viene pagato da Zetema, ma i soldi vengono pagati, vengono dall'istituzione biblioteche, però loro dipendono da Zetema, anche se poi devono coordinarsi con i responsabili delle biblioteche o degli uffici centrali per organizzare materialmente il lavoro, e quindi abbiamo persone che fanno lo stesso lavoro fianco a fianco ma hanno contratti diversi, qualifiche diverse, stipendi diversi, regole diverse. E quindi e questa è un'altra assurdità. Quindi questo capolavoro impedisce poi anche un'unità completa dei lavoratori e lavoratrici. Noi appunto era intenzione del nostro sindacato di tentare di fare un'assemblea unitaria anche con i lavoratori Zetema, ma non è stato possibile perché non è stata diciamo convocata contemporaneamente anche dagli altri sindacati in Zetema. Ecco, l'USI era disponibile a fare una convocazione unitaria vista la gravità della situazione, ma i sindacati confederali non hanno voluto, e spiego a chi ascolta del perché di questa situazione. Il contratto integrativo di Zetema è stato firmato da tutti i sindacati tranne l'Unione Sindacale Italiana, che appunto ne ha denunciato i forti limiti e il danno che provoca i lavoratori, e quindi questo contrasto poi si è trasferito appunto anche in situazioni di estrema gravità come questa. Comunque fra un paio di giorni io andrò a seguire anche come RSU, non di Zetema, ma insomma come osservatore, l'assemblea che ci sarà dopodomani dei lavoratori Zetema, e speriamo di poter dare loro qualche buona notizia. Ma insomma, per concludere, la gestione del personale c'ha questo grosso problema. Per quanto riguarda invece il rapporto col datore di lavoro dell'istituzione biblioteca e il direttore, lo statuto consente che ci sia un tavolo sindacale apposito. Tra l'altro c'è l'anomalia da un punto di vista della forza sindacale, che all'istituzione biblioteca su 3 RSU 2 sono dell'Unione Sindacale Italiana e 1 della CISL. Saremmo in maggioranza, ma ovviamente ci sono anche le rappresentanze ufficiali dei sindacati maggiormente rappresentativi, quindi agli incontri ci sono anche ovviamente CGIL, UIL e il sindacato autonomo DIC. Questo per un quadro completo, spero di non aver annoiato con tutte queste informazioni, ma No. Volevo però ecco chiudere invece con una riflessione un po' più generale, proprio per riprendere un po' così il discorso relativo alla campagna elettorale anche, no, di Marino, visto che tu vi hai fatto cenno. Il fatto che non siano state velocemente reintegrati questi fondi, credo ancora possa no, un po'... Ancora no, speriamo ecco, di dare una buona notizia oggi, ma non so. Ecco, penso possa un po' rappresentare un campanello d'allarme riguardo più in generale la visione che ha l'attuale sindaco del discorso culturale, no? Perché questo della città culturale appunto è stato un motivo ricorrente, e è preoccupante se si pensa anche al modo in cui evidentemente si vuole forse sostenere questo programma. Tra le prime cose che sono filtrate, per esempio Giangi, c'è quella di una edizione, la più spettacolare che si sia mai vista, della Notte Bianca, con tanto di gemellaggio con Parigi, le due capitali della cultura, e insomma sembra quasi che la cultura intesa da Marino sia giocata insomma sul versante della spettacolarizzazione commerciale. Ecco, questo viene da pensare, se a ciò si abbina anche il fatto che le biblioteche ancora su di esse regna un po' di incertezza, insomma la situazione, no, comincia a comporsi di tinte abbastanza fosche. Guarda, la tua preoccupazione, il tuo dubbio è assolutamente credibile. Io spero tanto che venga smentito dall'amministrazione, perché come è giusto bisogna giocare dei fatti, no? E quindi adesso i fatti li devono mettere in pratica, o in un senso o in un altro. Non c'è molto tempo, tra l'altro anche il bilancio preventivo 2013 e per chi ci ascolta che potrebbe pensare che ho avuto un lapsus, no, stiamo parlando del bilancio preventivo 2013 a settembre 2013, quindi come era successo per le precedenti amministrazioni di destra, invece di approvare il bilancio preventivo nell'anno precedente si approva alla fine dell'anno che dovrebbe essere preventivato, quindi questo con tutte le conseguenze di difficoltà di gestione quotidiana dei fondi eccetera eccetera, no? Quindi è una situazione assolutamente anomala. Questo bilancio dovrà essere approvato con un'ulteriore deroga concessa dal governo entro novembre 2013 si approverà il preventivo 2013, quindi oltre quella data non si potrà andare nelle scelte. Sappiamo che c'è un contrasto, lo sappiamo per quello che viene scritto sui giornali, non per altre informazioni, tra diciamo il sindaco e la sua giunta e la sua maggioranza, su chi deve decidere e quanto potere di decisione al sindaco e alla giunta e quanto invece come decisione collegiale. Ma queste sono tutto sommato beghe interne che non dovrebbero interessare poi né i cittadini né i lavoratori. Purtroppo ha delle conseguenze anche pratiche, perché per dirne una, nell'istituzione biblioteche ancora non è stato nominato né il nuovo consiglio di amministrazione né il nuovo direttore. Il vecchio direttore è stato prorogato proprio 2 giorni fa fino al 30 di ottobre. E siamo senza consiglio di amministrazione, quindi senza indirizzo, senza un organo che è responsabile del bilancio. Questo insomma avrebbe dovuto essere uno dei primi atti della nuova giunta, quindi anche su questo stiamo partendo maluccio. Comunque io dico, siamo e sono ancora in tempo per rimediare. Speriamo che non facciano gli errori del passato, delle precedenti giunte, e che non ci costringano a alzare molto il livello della lotta, della contrapposizione, dell'informazione ai cittadini. Sì, anche sul piano, diciamo, non aspettiamo passivamente di morire di morte lenta o veloce, ecco. No, vabbè, prima sentivamo insomma Luca del Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa, anche su quel fronte bisogna insomma notare, si segnalano atteggiamenti insomma tutt'altro che disponibili, quantomeno su alcune questioni, e quindi staremo a vedere. Gianci, senti, visto che l'incontro a cui diciamo siete stati, sto andando a Piazza Campitelli perché sono arrivati anche gli ultimi lavoratori, quindi ci sarà questa assemblea, poi la convocazione dell'incontro alle 13:30, quindi nel pomeriggio evidentemente si capirà forse meglio se la situazione si è districata o no. Io verso le 2:30, massimo le 3, richiamerò in radio e vi dico che cosa è successo. Va bene, ciao, grazie. A te, ciao.